Mi stai ascoltando tu? Ah, se mi sente bene Riccardino, che l'ascolto basso basso, vuol dire che già sta andando, là. Va bene, Natalia, la radio va bene, da quando hai cambiato microfono la radio va bene, qui da me non è fortissima, però almeno è pulita, quello sì, ed è quello che conta infatti. Sì, avanti Franco. Dimmi una cosa, Giulio. Fischio, fischiamo. No, non c'è nessun fischio, niente. C'è solo il bip doppio, basta. Importante che non ci sia fischi. No, niente fischi, assolutamente niente, o Franco. Avanti, riprendi ancora se credi. Ok, va bene, grazie. Continuo che continuo a fare questo, dai. Ti ringrazio per il controllo. Ehi, figurati, fra, ci mancherebbe, vorrei vedere. Avanti Riccardo. Ok, sì, siamo rimasti noi due, anzi noi tre con Natalino. Ripeto Natalino ancora una volta, la radio è bella, la radio adesso è pulita, non era come quando avevi il microfono originale, per carità, che era proprio, sì, si capiva quello che dicevi, però era un microfono proprio sporco, che più sporco non poteva essere, guarda, veramente, ma da quando hai cambiato il microfono va benissimo, la radio va benissimo, ripeto, da qui da me non è fortissima, no, questo no, però devi considerare che la radio almeno è pulita e capisco quello che dici, ecco cosa intendo io, Natali. Poi si sa, lo sappiamo, la situazione tua com'è, sappiamo la tua condizione di trasmissione com'è, per cui meglio di così non credo che si possa fare, almeno per il momento, poi in seguito si vedrà. Vai Natali. Sì, evidentemente lo sai perché non c'è amplificazione, perché è chiusa la LC e qua non puoi toccare nulla, capito? Comunque lo vedo che sta muovendosi la lancetta del dosmetro. Sì, ma sì, quello sì, ce ne sono. I picchi positivi ce li hai, questo è scontato. Non saranno tantissimi, però i picchi positivi ci sono. Per cui se è chiuso da LC e non si può aprire per vari motivi, o meglio per il motivo che sappiamo benissimo, ma non è il caso nemmeno di preoccuparsi se la LC non è aperto del tutto, perché ripeto, io ti sento bene, non ci sono dubbi, e suppongo che ti sentano anche fuori nei paesi, io suppongo di sì, Natali. Sì, un attimino. È che questo non c'è né schema elettrico, nulla, non si sa se c'è il trimmer della LC, nulla. Adesso vediamo, mi devono portare il foglio, ma no, questo non lo tocco, non conviene. Lo lasciamo così e buh. Sì, ma è così. Avanti chi mi chiamava? Riccardino giù, che non l'ho capito, perché in mezzo al QRM proprio mi si girano così le scatole quando è così. E adesso che si assentava un attimino e che ritornava subito, c'era un altro amico che aveva fatto un interrogativo, se vuoi ripetere che mi sono già dimenticato quello che mi hai chiesto, avanti l'amico di prima. Natalì. E dimmi qua. Hai fatto qualcosa sul microfono, arrivi meglio, Gli ho tolto quella rondella che c'è attorno alla capsula, gli ho messo come si chiama il cotone e basta, non gli ho fatto altro. Va bene, più corposa la modulazione, ma molto meglio, eh? Ok, ti volevo dire questo. Chiudo qua che mi tolgo tutta sta roba a mezzo piedi. ci sentiamo tra un attimo. Vai Giulio, sì, ho notato anch'io, c'è una portante ogni tanto. Sì, sì, adesso l'ho sentito anch'io la portante, ma c'è Angelino che ha chiamato. Angelino, scusa, dai, ti hanno sovrammodulato involontariamente, se vuoi riprendere, vai Angelino. Sì, Riccardino è a Sassari, è nella parte alta anche di Sassari, solo che ha una mini Grand Prix come antenna, no? E sta aspettando, l'antenna nuova sta aspettando, che sarà ordinata e ancora non gli è arrivata. Però ieri, ad esempio, ieri aveva anche il microfono preamplificato che aveva acquistato, però c'aveva un difetto, non come trasmissione, ma su una carcassa. E stamattina l'ha restituito e adesso glielo devono cambiare, appena che arriva glielo danno nuovo. Ecco, tutto lì Angelino. E quello, le condizioni sono quelle, purtroppo lui ha un'antenna poco performante e non arriva a mirli magari da te. In questo passaggio sai che non ti ho ascoltato bene, perché mi sa che sta aumentando anche un po' il QRL. Va bene, eh. Comunque ho capito che la spiegazione che ti ho dato ti è arrivata chiara, ho capito. Avanti, Natali. E infatti forse si sta alzando il QRM. Io poi, guarda, non riesco a sentire perché ho l'antenna bassa, capito? Lo so Natali, purtroppo, ripeto, la tua posizione del tuo QTH è lì, in quella zona, e dunque non è ideale, diciamo, dai, anche perché non avendo l'antenna installata sul tetto, perdi molto per due motivi. Primo, perché l'antenna è troppo bassa. Secondo, sei in una strada che è abbastanza stretta e dunque lì è anche quello dove fluisce, perché praticamente sei coperto, se vogliamo, dai muri delle case che ci sono a fianco, eccetera. È tutto lì. E volevo chiederti, Natali, ma a tu Angelino lo senti da Alghero? E l'ho sentito, sì, ma già l'ho sentito poco fa. Prima non lo sentivo per niente. Break. Registrato il break. Probabilmente lui ci sente. Adesso glielo chiedo. Angeli, ma tu lo senti a Natalino, a Sassari? Ok. Natali, allora Angelino ti sente, Santiago 3, Radio 2, però ti tira fuori, naturalmente quando la frequenza è pulita, senza QRM, eccetera. Speriamo che non aumenti. C'è stato un break avanti. Buonasera a tutti, Gianni WRU. Salutoni a tutti. Avanti Angelino, buonasera. Ma stai ascoltando musica, siete sottofondo musicale. Facciamo andare avanti a Robertino, voglio vedere se lo sento Alghero. Avanti Roberto. Riccardino. No, Roberto di Alghero. Ah, di Alghero, capito. No, non lo sento quello io. Prova Roberto a vedere se ti ascolto. Nada. Riccardino, avanti. Riccardino c'è perché. Avanti tu Giulio, dai, fai girare. Ok già, sì, però si è assentato un attimo, ha detto che ritorna subito, c'era Riccardino, sì. Sì, il microfono l'ha portato, l'ha consegnato e lo devono ridare nuovo, vabbè dai, e questa è tutta la nostra storia. Sì, sì, no, Roberto da Alghero io non lo sento, la verità, io non so se lui riesce a sentirmi, sempre che ci sia veramente. Attenzione Roberto, non so se ci sei, casomai mi fa la ponte Angelino, perché essendo lì tu sicuramente ti sente. Vediamo un po', attento Roberto, mi ascolti? Ciao Natalino, buonasera anche a te, dai. Ti ho sentito con la radio più corposa stasera, cos'hai fatto? No, gli ho tolto quella rondella che c'è attorno alla capsula e gli ho messo il cotone. Forse forse è migliorata per quello. E vabbè, senti anche il respiro adesso. Già va bene, già va bene, già va bene. Cappa cappa. Sì, lo so Giulio che era ritornato perché l'ho anche visto stamattina. Gli ho chiesto se aveva un MB più 5 a fusare, così ne ho uno. Me l'ha tolto fuori, io siccome sapevo già la storia, ho controllato e ho detto no, ma questo qui non lo voglio. E guarda, te lo do di meno, no, no, non lo voglio, c'è questo difetto. Ma non è un difetto, c'è la vite sotto, è per quello che rimane bombato. Ho detto no, lascia perdere, non lo voglio per lui. E non ne ho preso. Insomma, si voleva imbarcare, si voleva. Ma dai, da un poco, non è possibile. Ma guarda un po' che è andato il sistema di venditore. Vabbè, lui ha tentato, naturalmente lo sappiamo, i commercianti sono così, ha tentato di venderti un microfono già manomesso, diciamo. Vabbè, pazienza, dai. A te le immagini è nata lì, come sono furbi, o perlomeno credono di essere furbi certi commercianti. Sì, infatti quello non andava venduto. Ho riparato magari se si può riparare, ma non venduto così. Ascolta. Fattura che si era appoggiato e praticamente glielo restituisce nuovo. No, guarda Natali, va lì, basta fare un lavoretto, bisogna scollarlo e metterci un po' di colla sotto e appiattirlo bene e la bolla sparisce, come quando tu metti gli adesivi che si forma la bolla, no? Che tu lo fai scorrere e poi esce fuori la bolla d'aria. E così è quello lì, e bisogna pensarsi e farlo, non è che ci sia molto da... È solo che se lo compri nuovo il microfono deve essere nuovo, e io sono di quel parere lì. Sì, infatti. Questo qui per esempio non amplifica, ma la colpa è del baracchino che è chiuso, capito? Più di questo tanto non può amplificare. No, ma non va bene la radio, cioè è abbastanza corposa, bella forte. Io ti sento così perlomeno, poi non lo so, io la sento molto meglio di prima. E gli ho fatto quel lavoretto lì, la capsula è normale, è la sua. Questo è quello nuovo, io ho solo fatto quella modifica e basta, però è l'apparato che non pompa. Prendo io allora, sì, ma non c'è dubbio, Natali, il microfono va bene adesso, dai, ti sento bene io che sono distante, Gianni vabbè, non è che sia molto distante da dove sei tu, ma io ci sono già 5 km ci sono da dove sei tu, per cui va bene, dai, va bene Natali, non ti preoccupare che già ti sentiamo lo stesso, e chiaramente, certo se puoi stare il QRM a 8, no, è ovvio che anche la radio ne subisce le conseguenze, però così come oggi è tranquilla la situazione, non ci sono dubbi, va benissimo. Ok, vai Gianni. Ehi, prova a parlare Natali, che ti sto registrando, poi ti mando la registrazione. Sì, infatti l'apparecchio rimane inchiodato a 3 watt, più di 3 watt non dà, diviene 4 watt, invece ne dà 3, ne dà, perché lo sto misurando e più di 3, i picchi positivi già si vedono quando parlo. Mi chiamavo Angelino, avanti Angelino. Cappa. Eccomi qua, sono rientrato. Ho messo tutto a posto, vai. Va bene, va bene. Quindi così mi stai ascoltando più di 9, Angeli, così. Va bene, dai. Ho fatto un po' di regolazioni. Anche lì da te, Giulio, sto arrivando bene. Sì, sì, benissimo, qua. Benissimo, va benissimo. E vabbè, ma con queste radio vecchie non è che... Cioè voi siete abituati a sentirmi col K, tutto bello, pulito, ordinato, però con queste bisogna trovare sempre le cose giuste per poterle usare, dai, se no non viaggia, capito? che ci ho buttato dentro l'armadio. Adesso ho fatto le connessioni e nel frattempo gli ho fatto anche un paio di tarature, capito? Non so che microfono stavo usando, adesso sto usando l'SBE, prima stavo usando l'MB più 5. Sì, vai Natale, riprendi. E K, c'è stato un bip. Boh, mi è sembrato quello di Luca. Luca, tu sei? Santiago non arriva qua, non so chi è. No, io non scendo. Franco, basta del radio. Basta del radio. Basta del radio, è anche sporca. Ah, Franco era che stava provando. Fra, tu sei? Yeah. Beh, l'hai fatto quel lavoro che ti ho detto. Ma poco fa andava benissimo, Fra. Abbiamo provato anche assieme, andava bene. Non ho capito cosa c'è adesso. Nemmeno 10 minuti fa che ha provato, che stava ancora lavorandoci ed era bellissima, andava benissimo la radio. Adesso si vede che qualcosa che ha spostato, non lo so, ma mi sembra che è rientrato anche per Riccardo. Vediamo un po', mi è sembrato, mi sentiva poc'anzi. Riccardo, sei rientrato? No, non è rientrato, dai. Va bene, dai, riprendi qua. Va bene, la tua radio va bene, qua, andrà tutto così come te, mettigli un po' di attack, in modo che non si sposti più niente. Ehi, domani mattina poi faccio altre prove, che devo provare un altro microfono, questo è SBE, i ZG li ho provati, c'ho un Turner che però non andava di radio, domani mattina me lo controllo a vedere. Avanti, Riccardio. Quelli che ti ha mandato Massimiliano, che tu hai detto che non ce n'era tale più tre, già ci sono, Ricca, basta cercare le cose piano piano, senza fretta, e così hai visto, con 100 euro ne hai comprato due, in quella maniera ne hai comprato uno con 70, va bene, sono contento, dai, poi quando arrivano facciamo le prove e lo regoliamo, ok? Aspetta che stanno parlando. Sì. Si chiama Turner più 3, non ZG più 3, Turner più 3, e poi te ne ha mandato un altro, te ne manda un altro. Quindi sono degli ottimi microfoni, Ricca, capito? Vanno molto bene per le radio vintage. Quando te lo riordina, vai e te lo ritiri, va bene? Adesso faccio girare, chi è la break, avanti? Franco, vai al 5 un attimo. Vado io al 5, buonanotte, vai tu Giulio al 5, dai, rimango io qua. Ok, vado io al 5, vai Franco. Cosa c'è? Era cacchi. E vedrai tu Riccardino, quando arriva l'antenna nuova ti arriva quanto ti arrivo io. E allora già va bene. Ehi, già va bene. Io già ti sento, sì, non ce ne ho problemi. Un attimo, sono rientrato. Oh, Angeli, guarda che ti ho mandato il messaggio vocale. E a Buonasera, a Claudio poco fa l'ho chiamato, ma volevo un'informazione, Claudio. Non è che per caso ti ricordi il numero di quei napoletani che erano ben gentili, che mi aveva dato il numero New Electric, qualcosa del genere, non me lo ricordo però. Ho capito, di Danilo, no, ce l'avevo sul telefono vecchio e poi non lo so che fine ha fatto, se l'ho cancellato o meno. Comunque c'era anche Claudio da Muro, se col portatile vi ha salutato, sentiamo dopo Claudio. No già, ti ricordi, me l'avevi già chiesto, non me lo ritrovo più, e mi dispiace tantissimo. Non so chi è che me l'aveva dato, se me l'aveva dato qualche radioamatore, qualcuno, perché veramente una persona, guarda, troppo in gamba, mi aveva risolto un sacco di problemi. A me mi mandava già il microfono, mi chiedeva la connessione, me lo mandava già con la connessione fatta. Lo so. Sì, Claudio, ci sentiamo dopo? Perché sto cercando un'antenna a casa per la macchina. Quelle grandi non le voglio, le voglio mettere una mini turbo oppure una pedicimino. Non so chi hai calpestato a Claudio che col portatile. Cosa hai detto, Cla? Va bene, adesso mi devo organizzare, Cla, perché in questi giorni c'è un sacco di cose da fare. Stamattina me l'ho scampata perché non è arrivato del materiale, ma domani sono al QRL tutto il giorno. Comunque già ci sentiamo e ti avviso, quando posso salire, ok? Ce l'ho trovato il messaggio. Ok, Claudio, ma non senti a Claudio già, mi uso i castigliani. Va bene, dai, che non ti sentono qua a Sassari, è in piazza col portatile e non lo sentite. Franco, avanti, vieni avanti, è sistemato? Franco? Angeli? Allora io ho agganciato la cosettina qua. Va bene, dai, stazionaria come siamo. Io non ce n'è. Giulio, vieni avanti, Franco è parito dove? Giulio? No, stavano facendo le prove sul canale 5, però ho sentito Franco, mi ha detto, sono rientrato. Claudio, non lo sento a Claudio di Muro, se non lo sento per niente, se no non avrei pestato, non lo sento proprio nulla. Non ti ricordi manco il nome dell'azienda, Claudio? No, negativo, manco il nome dell'azienda, non ricordo. Niente. Aspetta un attimo, però c'ho problemi, aspetta. Eccolo qua, Radio World, l'ho trovato. Sì, Radio World. No, Angeli, per ordinare cose. Per ordinare roba, per ordinare antenne, baracchini, eccetera, eccetera. Non ho capito. No, si sente molto la tua radio perché è bella forte. Ma l'hai modificato con l'MP5? E allora la voce duia. Avanti, Alfa 21, stamattina l'ho visto il tuo microfono, lo sai. Tu manda a tutti i dinni, manda quando vuoi, non c'è problema. A me mi piace intanto. E stamattina ho chiesto un microfono per me, mi ha presentato quello tuo, ho detto no, quello non lo voglio, quello lì. E me l'hanno riportato perché dice che è difettoso, che qua, che là. E mentre vuoi, quello qua non si compra il microfono nuovo, lo vuole nuovo. Vabbè, dai. Ti ho ordinato un'antenna anche io. Buonasera, sono qua. E Eugenio, che vuoi che sia? buonasera a tutti. Eugenio, la musica della frequenza, avanti. Bea, buonasera, buonasera a tutti. Dai, avanzate le vostre dediche richieste. Cosa sai fare, cantautori, cosa sai fare? Niente già, niente. E allora cosa vuoi? Io sto guardando una cosa, devo telefonare una ditta un attimino e poi vieni. Sì, c'è Eugenio da Porto Torre. Eugenio, lo ascolti Eugenio da Alghero? No, io per Alghero sono coperto. No, non ascolto niente, zero. Ma non penso che mi ascolti anche lui. Ci sono io, là. Ho concluso tutto. Ad Alghero negozi di 27 ce ne sono. Per la 27, dove vendono materiale per la 27, tipo antenne di macchina, eccetera, eccetera. Cercando un'antenna mini per la macchina, una mini turbo, un'antenna mini. Se c'è qualcuno che ce l'ha. Ho detto a posto adesso. Ehi, io ho capito, già mi hai mandato il coso, le foto. Ho detto, ma adesso sta a posto, il segnale è tornato alla normalità e mi si era staccato il PL. Va bene, dai, riprendi già. Ma questa deve arrivare una 9.30 anche. Quindi colpo si sceglie. Ehi, 9.30 sono col Polmar, col Polmar 7000. Ho fatto una modifica, all'interno gli ho messo il linearetto, però non era saldato bene il connettore, adesso l'ho saldato meglio e a posto. Quindi, allora, così è con la massima potenza. Angeli, metti l'occhio su questo cacchio di smitter, che voglio essere sicuro se funziona tutto bene, lo devo chiudere, che non si vede niente, che c'è l'interruttore del coso, quello di davanti, c'è un interruttore, c'è scritto Delta Tune, non serve a niente, non so per che cosa, c'è scritto più e meno, vabbè, io ho provato, non serve a niente. E quindi lì mi sono collegato all'interruttore del lineare. Allora, così è in posizione più ed è acceso, ok? Così è acceso e così è spento. Cambia molto, Angeli? Sì, la madonna, 30 watt. Bene, bene, bene. Stazionarie. Perfetto, perfetto, perfetto. Ottimo lavoro, dai. Ottimo lavoro. Avevo già fatto una volta al Galaxy, Gianni. Sai, quei linearetti piccolini da 30 watt che non hanno manco interruttore, capito? Sono quanto un pacchetto di sigarette. E l'ho messo all'interno, dietro dove c'è il cavo di alimentazione della 12 volts, ho preso l'alimentazione a 12 volts, non vede nulla. Questa radio, tu la vedi, cazzo, perché da 30 watt questa radio? Così è, avanti già. E l'hai fissato all'interno? Sì, fissato proprio con due vitini fini, piccole, non si vedono neanche, giusto per non muoversi, senza buoni attacchi, senza nulla, con il suo dissipatore, perfetto, una cannonata, l'ho provato a portante fiscia non scalda niente, quindi va bene l'idea. Poi già è sotto, è aperta la radio, c'ha degli spacchi, quindi il dissipatore è girato al contrario e va bene. Ok. Manca domanda, non cambia manco la modulazione, eh? Perfetta, perfetta. Va bene, avanti, a chi tocca cambio. Ehi, carissimo, ehi. Quando non sai cosa ha fatto, i buoni tappenti, no? C'è una vecchia carcassa degli anni 70, c'aveva 5 watt senza regolazione di potenza, agitavate ci teme giù io. L'ho comprato stamattina, questo linearetto, alla GBC, ne aveva uno, siccome io lo sapevo già, l'avevo comprato lì, ne aveva uno, dammelo subito dalla CTE, vanno molto bene. Con i finali a MOSFET glielo ho buttato dentro, dai. Va bene, dove sei? Te lo dico io chi sei, te lo posso dire io. Ma io già ho capito chi è, Giampaolo sì. Ciao Giampaolo, Lucia Catramina, ciao Lucia. Ciao Giampaolo, ciao Lucia, buonasera, ben ascoltato. Va bene, ehi, si è rivendo una bomba, Lucia, vabbè che sei sotto il mio dominio, scala di ciocca, quindi va bene, ti faccio salutare, dai Luca, saluta Luciano, poi vai per Gianni e per Company. Ehi, ciao Lucia, ci avete ascoltato, dai, salutoni, buon tutto, buon rientro, le blues, ciao. Ciao Luciano, ciao, mi hai sentito? Bene Lucia, dai, già siamo Genove, avanti, sempre all'ascolto. Gamba gamba! Angelino, questa qua la radio si sente? 1, 2, 3, prova, cambio! Ammottasa tutto! Via, dai, va bene, va bene. Vabbè, devo aver toccato anche la radio, troppo forte Angelino. Devo aver toccato anche la radio. Troppo forte. Io ho capito che si mette all'11 alfa a fischiare. Ma non se ne gioca dalla salita, ma non prendere la barra, ragazzi. Cioè, ho scaricato il viso perché l'11 alfa si è nata. Io già avete voce. Non lo so, stamattina c'era una portante lo stesso. Vabbè. Ho detto troppo alta la radio, la lascio così. È alta, è clap. Ma Luca mi ha detto che è troppo alta, allora non devo gridare, dai. Allora bisogna abbassarla, ma cazzo l'ho messa? Dove è Piolino? Ah, eccolo qua. Ecco qua, era così prima, lascio così Luca. Dai, prova. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5. Ehi, dai, che c'è un bar, dunque se mi fa me forte la radio, lasciala così, dai, lasciala. Ehi, ehi, ehi, forte, lascia un bel forte, questo è SBE. Va bene, dai. Ce l'avevo però, allora, adesso è, no, a 5 il microfono, a metà, a 5 e mi tiri in a 5, metà e metà, come era prima, dai. Va bene, avanti Gianni. Ma con che apparato stai usando questo, sempre con quello che ti ha dato capi? Sì, è quello che mi ha dato il Polman, 7000, adesso c'ha 30 watt. Ma che tipo di linearetto è? Io mi ricordo che anche in un altro l'avevi messo, non lo ricordo. Che cos'è 30 watt questo linearetto? Sarà quello che ho vinto io, la lotteria che aveva fatto Torino 100 anni fa. Quelli sono, della CTE, CTE 30. Quanto è un pacchetto di sigarette proprio. E non c'è un interruttore né niente, c'hai due fili e 12 volt e basta, capito? Avevo già messo dentro il Galaxy Saturn Echo io. E andavo da 0, da i watt, da. Sì, da 0 a 30 watt. Ascolta, ma l'hai scoperto oppure l'hai lasciato così? No, così, dentro, così. L'ho messo dentro la cassa. non surriscalda così. Cosa surriscalda? Surriscalda. Io quindi, vabbè, quando sta, adesso è staccato e sto usando tutte quasi 10 watt della radio. Quando invece attacco le do un watt e mezzo, 2 watt e me ne da 30. E va bene, dai, va bene. Andrà bene, buonasera a tutti di nuovo. Ciao Gianni, poco fa non ti sentivo, cambio Vassero. Perché quella lì non è zona buona per me, dai. Attenzione Luciano Gattramina, se tu ascolti questo modulatore, Gatt. Certo che l'ascoltiamo, certamente che sì. Positivo il caparruccio. Beh Luciano, rientrando? Rientrando siamo, Drucke, siamo rientrando, un po' tardi, ma meglio tardi che mai. Gappa. Andale, tutto Roger qua, tutto sparato. Vediamo un po' se ti ascolta Alghero. L'hai ascoltato Angelia, Luciano Gattramina da Sassari? Tu ce l'hai copiato? No, negativo, non lo sento per niente io non lo sento per niente. Buonasera anche Angelo, se mi ascolta, Gappa. Oh, ma da così, dalla radio, da così qualcosa cambia? Eia, un bello, così sei proprio arretto. Tutto arretto, capito? Gabba. Avanti già. Eia. Forse Luca ti devo chiedere un favore. Questo qua mi sto trovando le 100 euro, non lo do, Gap. Quanto? 100 euro lo do via, Gap. 100? E allora? Ah, vai. Perché? Perché è poco. È poco, questo qua vale, non vai più 100 euro. Vai, che non lo dai tu ma 100 euro, mi ce l'hai pagato 200 e lo dai 30. Vabbè, che mi piatti in giro, io non voglio piangere a nessuno. Dimmi il favore. Beh, vuol ordinarmi un'antenna per la macchina. Praticamente io non ho la posta qui, se me la puoi ordinare tu. Mandami il link su Facebook, su Messenger, poi faccio l'ordine, non c'è problema. Però mi devi fare la ricarica già, ti do i dati, ti fa un salto a casa, il problema la faccio io, mi dice quanto costa l'antenna, capito? Sì, intanto la magnetica l'ho già presa da usare. Aspetta, la provoca mi ha detto 55 euro la base magnetica, la stessa. Oggi me l'ha fatta pagare 20 euro. Lo dice ovviamente l'avrei venduta io, la base magnetica. Allora non serve. E di quale grandi? Dov'è Lucia? Piatta grande, ce l'ho io. Cosa Luca? Dov'è che è Olbia? E che antenna c'hai? Oscari, buttando oro nero. No, la turbo piccolina e la turbo 2000 grande. Dai, bene, ma era quella piccolina, ma la... ma ci manca il motto. Ci manca il motto, capito? Si ha il motto. No, non ce l'ho appena dato, se lo sapevo. No, cosa, di meglio, non è motto. Oggi è di meglio, il suo motto d'ora non è motto. Mosso, no, non è mosso. Ha il puntile. Ah, avrà detto era mosso. Se no ti mando a lui, ma mosso. E attacchi ad un'altra cappotta, anche se la capigliatura vi va. Cipolla. E c'è salutare Luciano Gattramina bene, dai. Alla Claudio Sparviero ho cambiato radio. Anche se non cambia niente, però qua c'è un po' più di ricezione. Avanti Luciano, dove sei arrivato? Claudio, uscita qua, prendendo la stradina in direzione casa, dai, con Forama, con la potenza sì, la venuta di qua. Gappa, la posizione. Ascolta, poi faccio girare. È l'amico nostro, il mio vicino di casa quando era a Vidalba. L'originale che fine ha fatto, non l'ho più sentito. Io l'ho visto quando era, la settimana scorsa, è fuori zona, è fuori zona. Vabbè, importante farti vedere, se lo senti o se lo vedi salutalo, un abbraccio da Claudio Sparviero, che sono secco che non lo vedo, non lo sento. Va bene, faccio girare. Allora Gianni, dai, mettiti d'accordo con Luca. Io non ce l'ho lo stesso, la posta in pesce non te l'avrei fatta adesso al volo. E niente, lui devo ordinare la mini turbo, se c'è nera. Con la lì devo ordinare. Eia, non c'è problema. La mini turbo nera, boh? Si cerca mini turbo, e lo vedi. Nera, già c'è. Su eBay. E tu vedi antenna, vettura, mini turbo. Ciao ragazzi, io vi saluto, dai, adesso qua me ne metto in zona negativa e non mi ascoltate più. Dai, mi ha fatto piacere, ciao Luca, Gianni, Claudio, salutoni, un abbraccio, alla prossima. Ciao Lucia, ciao, ci sentiamo, buon rientro a casa, ciao ciao. Ciao Lucia, ciao Lucia, alla prossima, un abbraccio anche a te, dai. Ehi, non ti bello, io non ti preoccupa. Ciao, vai Lu. Ehi, ciao Lucia, dai, salutoni, buon rientro e buon tutto, alle prossime, ciao. Allora, ce n'è una all'antenna CB mobile, veicolare GGD mini turbo, con base magnetica alta 1,25 m, 69 euro, cioè di cui 60 di antenna e 9 di spedizione. Ah, mini turbo della Lem è quella lì. Aspetta, controllo. Io voglio, guarda, quella uguale alla turbo 2001, però è la mini. C'è scritto sopra, mini turbo. E costa 41,50 euro di costa. E invece guarda la PLC Minox, la L, Minox L, guarda a vedere quanto costa, se costa di meno. E allora, antenna PLC Minox L, L. No, non me la dà. Sigma, ah sì, no, Sigma PLC Minox S, la S, cioè, la S solo ce l'ho, costa 77 euro spedita. La F, no, L, è la L, lei, Livorno, già c'è, l'ho vista io poco fa, Minox L. Aspetta, controllo bene, aspetta, controllo la computer, la prima te fa molte cose, non me le dà. E anche a me. Raga, quali sono le mini turbo? Ah, quelle nascono già tarate, non c'è da tarare niente, quelle che dico io. La PLC, L e la Minox sono già tarate. No, ma io sto parlando delle LEM, praticamente io c'avevo la Turbo 2001 della LEM, era una schigia con l'antenna, a tutte le parti parlavo da portatore con Alghero, fatti il conto. Allora, quella che avevo io era la Turbo 2001, io invece sto cercando la Mini Turbo della LEM. Alfa 21, ma quell'apparato che mi ha mandato l'hai comprato? Non mi piace tanto, lo sai, è troppo... è vuoto, non mi dice nulla. Ah già, ce ne sono due, una costa 49 euro senza base magnetica. Certi... ah ecco, e qua 50 euro sempre, to... e poi ce n'è una con la base magnetica già completa, 69 euro spedita. No, la base magnetica ce l'ho, Luca, mi serve solo l'antenna, l'antenna completa, non solo lo stilo, eh. Antenna, allora, antenna, poi c'è il cavo, tutto il mozzo, completa, 50 euro, più due di spesa, due di ricarica sono 52 euro. Già va bene. E cos'è questa? Questa è l'antenna CB veicolare GGD Turbo Mini con cavo vari colori per camper e auto. Questa è nera. Quella è bella. Quella lì dovrebbe essere buona. Ma della LEM è quella? Boh, già cosa mi sono della LEM, ma se controllo. Vediamo. E c'è anche la Mini. La Mini Turbo c'è, cioè sempre nella stessa casa. Nello stesso attacco puoi mettere la Turbo 2001 oppure la Mini Turbo. Ragazzi, allora qua dice tipo di... allora caricata la base, come direzionale, polarizzatore lineare verticale, banda 27.85, altezza, potenza 400 watt, completa di cavo 158 metri 4, la mia, non c'è cosa di cos'hai, non dice niente di cos'hai, comunque la mini turbo, la GGD, c'è anche il numero di telefono se vuoi, lo vuoi chiamare, boh. Ehi, yeah. Me lo dici tu? Come? Il numero me lo puoi dettare, il numero che c'è di telefono? Ah, 0776 166 894. Ripeto, 0776 166 894. Ok, lo sappiamo. Non sai che è già tardi, Non prova. Chi è? No, Roberto, ci sei? No, non c'è. Caragaba. Mi chiama la bocca al microfono, ho sentito, cosa hai detto? No, non ho trovato l'elevatore. Quando sono io non le ha patente, poi non lo so, buco. Chi tu? L'ho telefonato, non ne fai contrassegna, futti i diti, lascia perdere. Già me l'ordino a fusare. Eia. Sì, Mantovano. Fusano Mantovano non ne ha mai avuto. Perlomeno in questo periodo no. Prendono le Grand Prix della Lamb, hanno Lamb loro, c'hanno le Turbo 2001, tutte le antenne della Lamb. La Turbo 2001, quella lì l'ho avuta anche io, ma io avevo il tipo vecchio, avevo lo stile vecchio, quella lì pompava forte, adesso dice che quelle che hanno fatto non rendono più come quelle. Lo so, ma non è trudi, non c'è l'equa, non ci sono... Lo sto cercando a pagare in contrassegno, non ce n'è uno che fa pagare in contrassegno, non si la abita di tutti i luci. Ecco, buonasera, già fa con la testa, ora porta, mi hai dato il controllo? Ma che c'è qua, vabbè. Chi sei? Ciao Adelina, buonasera, Franco da questo, un rapporto di segnale, grazie. Ma chi Franco sì? Cazzo, bravo, adesso il gufo a vedere mi va bene di sopra. Scusa, ma te l'ho sentito, già. Sta facendo un bel male, Franco, fatti il microfono alla bocca, ma sei tutto bar. Tutto è partato, sì. Gioco è partato, sì. Ma io ho la foto di Gianluca Impattato, non so se l'hai vista, l'ho messa su Facebook. Franco, me la dai la cosa, la fusta nera? Ma stai scherzando, la fusta nera, non si tocca quella già. Stai scherzando, non è chissà cosa, se vuoi su internet c'è. Te lo sto chiedendo perché qua a Sassari, perché mi serve per la macchina, perché il colore è nero, non voglio mettere antenne diverse. Ma quella non la do perché è un regalo, capito? Vabbè, non c'è problema, sto solo chiedendo poi, se puoi, se no, a te. No, guarda adesso c'è la radio migliore, Gianni. Mi sa Luca che abbandono l'idea, non li può più in macchina. Ma in macchina non può andare mai. Ma io mi ho preso la magnetica stamattina, l'ho vista bella, costava poco e me l'ho presa. E niente. E quindi adesso la vorrei mettere. Però devo mettere un'antenna che non sia molto vistosa, hai capito? E mia. Pantieri, come sta arrivando lì Alghero? Eia. Quanto sono? Va bene. Frank, a te come ti sta arrivando? Dove sei? A casa? A casa tua sì. Ugari è lascia a perdere, dai, prega, te ne ordino da Fusaro, il telefono adesso è da uno. Ma non capito, guarda adesso, aspetta perché ho abbassato il TV, guarda un po'. È brutta la radio, fra, brutta, brutta, non ci piace. Aspetta il TV adesso, aspetta, media, ferma un attimo, ferma, ora, e adesso? Vabbè, aspetta, ma perché ti ho fatto il mio figlio già, capisco. Guarda un po'. Perché no, perché mi ha passato il mio figlio, non me ne racconto, dai. Ho Gianni, il 9-10, che ho rapporto anche lì, non ho per 5. Quindi non la dai la frustanella, fra. Gianni, ho solo contagio oggi in Sardegna, a Cagliari e basta, nessun decesso. Speriamo di migliorare, raga. Speriamo di migliorare che la cosa passi del tutto, perché lasci dei buchi. Stamattina ero in un ufficio poi giù. Sono andato presto perché volevo essere dei primi, dovevo fare un'operazione. E sono andato con la mascherina come si fanno. Stavo crepando di caldo, mi stava proprio fascinando questa mascherina, non ce la facevo più, c'era un caldo da morire. Sì, già, infatti succede così, adesso col caldo sarà più pesante sopportare la mascherina, certo. Poi se uno ha gli occhiali si abbandonano anche gli occhiali se sei all'interno di un ufficio, di una casa, eccetera. Magari per strada c'è un po' di aria e allora possono anche rimanere puliti gli occhiali. Ma se vai dentro casa ti si abbandonano anche gli occhiali. Sì, è vero, già appurato questo. Sì, è verissimo. Ma ti dà un po' di fastidio, col caldo dà fastidio, anche al supermercato stamattina mi dava fastidio, c'era troppo caldo. Sì, perché così già dà fastidio, molto fastidio, ma speriamo che finisca presto questa storia. Adesso dal 18 di questo mese permettono di andare anche al mare, però bisogna stare distanti 5 metri l'uno dall'altro. Mentre invece da gennaio, dal 18 mi sembra o 15 gennaio, allora possono venire anche i turisti qua. Speriamo che non portino di nuovo il virus, per carità. Yeah. E dice che stanno migliorando anche le situazioni nelle case di riposo. Per dire a Porto Torres ha migliorato la situazione. Non lo so a Ussi, perché Ussi era una delle peggiori che praticamente dove c'erano più mortalità. Sì, infatti Ussi era una casa di riposo abbastanza colpita dal contagio del virus. Lo so, ma un po' tutti questi ospizi per anziani, eccetera, sono stati colpiti in maniera massiccia proprio, non solamente a Ussi, è perché Sassari ancora oggi ci sono, altro che se ci sono. Fortunatamente non stanno morendo più nessuno, quanto sembra, speriamo che stiano guarendo, poveretti, perché sono lì in casa di riposo per stare bene e invece si hanno preso il contagio. Ui. Vabbè, pazienza, dai. Vabbè, dai, già, non è che mi hanno chiamato, sto scendo giù. Non lo so, forse ha fatto un tè mia moglie, non lo so, adesso scendo. Ci sentiamo, casomai se coincide più tardi. Ciao Gianni e ciao a quelli che sono in ascolto. Franco, se mi stai ascoltando, se scendi in una maniera sempre più fea, per carità, non ti sento quasi niente. Vabbè, ciao Gianni. Ciao Giulio, ciao, ci sentiamo. Avanti Angelino. Scusa, ciao Angelì. Ciao Ricca, ciao. C'è Eugenio anche, Eugenio avanti. Nella buona sorte nelle avversità. Ciao Giulio. Ciao Eugenio, non sapevo che c'eri tu, dai. Ciao, chiudo, che mi hanno chiamato. Forse ha preparato un tè, non lo so, adesso scendo, dai. Ok, a presto, ciao. Riprendi pure Eugenio. Dai, giù, dai. Riprendi Riccardino, conosciuto come Alpha One in gergo rap, Alpha One, Space One, riprendi il cardino. Ecco. Ok, va bene Ricca, va bene. Avanti il come si dice? Il pitturatore di macchine. Micca, chiami voi bene. Ciao Riccardo, ciao Eugenio, ho sentito forse di suggità a Gianni Doppio Rum e Luca, c'è qualche altro, anche Giulio, scusate, non c'era anche Giulio, avanti chi tocca. Ciao Angelino. Giulio è andato via, ciao Roberto. Beh, senti il discorso, quindi ti danno il microfono nuovo Riccardo. Io l'ho visto nel Rome stamattina. Che cosa? Che io stamattina l'ho visto quel microfono. Sono andato a Fusaro per comprare un'antenna. È la base magnetica per la macchina, però non ho trovato l'antenna che volevo. Vabbè, poi gli ho chiesto se avrebbe più 5 e mi ha detto sì, ne ho uno, e mi stava dando quello, come l'ho visto, e tu mi dici di Riccardo. Subito me l'ho immaginato, perché era gonfio. E mi ha detto no, no, lì deve stare gonfio perché ce l'ha vite sotto. Mi piace anche Claudio. E Claudio mi ha detto no, no, mi ha detto Marzia, guarda che. Non deve stare così, gli altri sono tutti pianti, non ne ha di bolle, questo c'ha le bolle, deve essere stato al sole, dice vabbè già me lo vendo, loro un po' di meno, vedrai che me lo vendo. Ma tu l'hai visto i potenziometri del volume del Mickey Gain e del coso? Ci manca il dadino di controllo di sotto, di blocco, e si muovono tutti, quel microfono è stato aperto. Ah, ecco, No, quello non l'ho visto, però ho visto che sotto anche lì dove c'è il potenziometri gonfio. Ehi, ah, quello va, pagando lo puoi pagare a metà prezzo, non di più, se costa 70 gli dai 35, diciamo 40 euro, dai, proprio per volerlo bene, ma le saldature già, se le vedi sono oscene, cioè se si mette un porcaccione a saldarlo, forse le fa meglio, incollate, non sono neanche saldate, senza protezione né niente, si toccano, ormai si toccano anche i fili, e basta, poi è tutto deformato, lascia perdere, se tu compri una cosa nuova, deve essere nuova, al limite se c'è un graffettino nell'alluminio, tanto quanto, non pregiudica niente, ma quello è proprio una cosa, secondo me poi non funziona neanche perfettamente, perché come tu chi tuni va tutto un rumore strano, devi mettere i tuni a zero, sennò va tutto in distorsione, entra un innesco, infatti se passa in officina stamattina mi sono dedicato Riccardo Babbo di dargli il coso, ero preso da tante cose perché ero al telefono, poi quando è venuto stavo facendo una chiamata, ero mezz'ora in attesa, mi hanno messo, per cui non l'ho neanche potuto seguire, lo ringrazio da parte mia per quelle due antenne che le provo, dovrebbero andare bene, dai, cercherò di arrangiarmi. Ok, poi il microfono se passa ti presto quell'MB più 4 che ho io, tanto è nuovo e dovrebbe andare bene. Ok, avanti Riccardino. Avete parlato in due. Angelico, cosa hai detto? Ho capito, da Cagliari ci ha dato un negozio di Fusaro, c'è cioè il fratello di signor Vittorio, per cui già arriva in giornata se vogliono. Stavi dicendo Angelico. Comunque Riccardo, l'ascolti tu Angelico. No, se ti ascolta lui dicevo. Angelico, ascolti a Riccardo. Ok, chi c'è ancora qua? C'era Gianni, ricordati chi c'è già, che non mi ricordo. Io, tu, Angelino, Eugenio, Riccardino e poi c'era Giulio, se n'è andato, c'era anche Luca, poi non so se se ne sia andato via. Ok, facciamo riprendere al bosso di Porto Torres, avanti Eugenio. Via, sono qua in attesa ragazzi, e già non ne posso più. Sono qua in attesa che entri a Tirrenia e ancora non si vede. Poi mamma. Vuol dire in attesa? Ma perché? Non sei a casa tu? Sì, sono a casa, ma siamo di guardia, là, chiamiamola così. Siamo in attesa che entri a Tirrenia. Questa è la radio, no? Vi chiamano per via radio. E abbiamo la radio e sentiamo gli orari, ma ancora nulla. Ma com'è in ritardo? Sono le 7:30. Grazie Riccardino.